Saldi, saldi, saldi, un torpore da bazar, con le lacche, i lustrini e i sapori di là. Tutto pronto, sempre qua, in saldo, se lo vuoi. Spendi, compra, affitta in un ambiente di ricconi, dove sfarzo, luce e fiori sono vuoti come fuori. Tutto pronto, sempre qua, in saldo, se lo vuoi. Saldi, saldi, saldi, un torpore da bazar, con le lacche, i lustrini e i sapori di là. Tutto pronto, sempre qua, in saldo, se lo vuoi. Sconti, imbacchi grossi e luccicanti, sgargianti se vuoi, con proposte allettanti. Stanchi, sorrisi falsi di festanti, svuotati di orgoglio e di voglia di sognare. Furbi, deviati, mangiatori di forti inganni, sporchi guadagni sulle spalle di festanti. Fruttati, umiliati, non riguardi da toilet, il lavoro senza sosta per la gioia dei lacchè. Incornici rilassanti, frutti celati di lavori usuranti, morti nascosti dalle convenienze, di frutti le esigenze di un ambiente impertinente, persone come numeri e numeri come tempi, calcoli e bilanci di morte e frustrazioni, giocatori di scambetto, maneggiatori di forti inganni, militari nascosti da prezzi contenuti. Gli importi, sconti eccezionali, casse, carrelli, incassi da contare, prendi, arraffa, contratta, agguanta, risparmi, guadagni nei punti. C'è un cos'hai, sconti eccezionali, casse, carrelli, incassi da contare, prendi, arraffa, contratta e agguanta, risparmi e guadagni nei punti. Come vuoi portare proprietà della nostra numerosa, la tua casa è fare, fai di quattro, come vuoi portare?